Bye. La rue, la vraie. Bye bye, bye bye. Mantengo la calma, ma la testa e traumi, papà che picchia mamma, finché arriva l'ambulanza. Dritta in ospedale, piangevo da sola in stanza, sveglio tutta notte finché non tornavo a casa. Problemi di rabbia, bevo per vedere, finché non sbocco l'anima, guido decapotabile. Ti ho beccato, non hai fatto altro che tremare. Survet Marseille, TN slacciate. Maghrebi, Helluma, Tunsi col Shabati. Fumo infiltrato, commerciale e drogati. Sono sopra i palchi, ho alzato il guadagno. Invidiosi lo sanno, stanno rosicando. Nasco nel bando, cresco nel bando, morirò nel bando. Sei fatto una botta, poi due botte, sei tutto pippato. Ti sei fatto un pucciotto, voli elicopter. Quello che dici cazzate Harry Potter. Vodka e Red Bull, vodka e Monster. Giro coi mostri, giro coi monster. Sparatorie, mica sporco le nocche. Kalashnikov impregnata d'impronte. Ho preso le botte, ho dato le botte. Vince il più furbo, non vince il più forte. Sparatorie, mica sporco le nocche. Kalashnikov impregnata d'impronte. Ho preso le botte, ho dato le botte. Vince il più furbo, vince il più forte. Vince il più furbo, zitto, aspetto di mettertelo in culo. Aspetto tranquillo il momento giusto. Ed è il momento giusto. Kalashnikov come mafia russa. Mi sento Putin, fottiti Greta Thunberg. Capisci un cazzo di musica, sei un boomer. E rimarrai un boomer. Ho visto la merda, ho varie fratture. Non vendo più coco, mi pagano in fattura. Sono ammanettato stretto nei sedili in plastica della pattuglia. Sparatorie, mica sporco le nocche. Kalashnikov impregnata d'impronte. Ho preso le botte, ho dato le botte. Vince il più furbo, non vince il più forte. Sparatorie, mica sporco le nocche. Kalashnikov impregnata d'impronte. Ho preso le botte, ho dato le botte. Vince il più furbo, non vince il più forte.